sotto chiave, diplomi incorniciati appesi alle pareti, a dare un tono assieme ai tappeti. Ciò che pian piano è perduto, perché è lasciato invecchiare quei due bambini che giocavano al sole, perché la vita è una andava altrove ad inseguire un inutile dolore, per cui non sei abbastanza, non sarai mai abbastanza, non siamo mai abbastanza, non siamo mai abbastanza. Ma un giorno io mi libererò e via dai vostri ricatti, i vostri inganni. Io sarò libero per la prima volta, sarò libero per la prima volta. Ai rimorsi, agli occhi lucidi di genitori ansiosi, per cui poi scelto lavori decorosi, figli di tutti i compromessi, degli interessi di docili assassini, e chi ha difeso manco fossero i tuoi, non sentire più quel senso di mancanza, per cui non sei abbastanza, non sarai mai abbastanza, non siamo mai abbastanza. Ma un giorno i vostri ricatti, i vostri inganni, io sarò libero per la prima volta, sarò libero per la prima volta. Il giorno in cui mi libererò di via dai vostri ricatti, i vostri inganni, io sarò libero per la prima volta, sarò libero. Grazie davvero!